Sì, l'original trama sblasta per la strada, la vita è puttana, mingoia fino all'anima. L'original trama sblasta per la strada, la vita è puttana, mingoia fino all'anima. Per questo fresco tengo il micro come spada, per la mia lotta armata. Lingua come lamina, tagliente affilata, affilata. Lingua come lamina, tagliente affilata. In giro tra traverse, teste perse, spaccio gente attorciglia la sua vita al braccio. Nella savana urbana trama il più selvaggio, resto un cane sciolto, cattivo e randagio. La mia pelle cinepresa, setto l'obiettivo, scivola l'inchiostro, non è cure palliativo. Fotogrammi scorrono, hanno del libro impresso, zero collirio per gli occhi, ormai si è perso il nesso. Riprendo disinformazione, mafia, corruzione. Il sistema alimenta odio ma impone slogan ipocriti, farciti di buonismo. Il denaro è l'unico lubrificante del meccanismo. Lo Stato ammazza in divisa però non fa notizia. Muore un infame in divisa, si riorganizza la milizia. Costernazione, dettano repressione. L'occhio di vetro, film e reality è finzione. Quella fa il mestiere, soddisfando il tuo piacere, perché il figlio ha fame a sete ma il tuo occhio non la vede l'altra. Vuol godere perché è nata col gene dell'amore, per il pennello vuole nelle vene. Venerdì giro in machine con la click grammi addosso, tra le palazzine posti in stile mare grosso. Spliff accesi in mezzo a sguardi tesi, in mezzo a panni stesi. Questo è il rione crazy, qua vedo i miei coetanei farsi male con le loro mani. Bimbe bestemmiare in mezzo a bari, affari insani. Gente fa la fila per entrare nella disco commerciale, che a me invece fa cagare. Generazione pazza per pasticche e mastica, e musiche di plastica fatte da un trans che spara. Puttanate a raffica, serate cocaine ed acidi, e il popolo dei placidi più squallidi. Ho visioni, facendone a meno, tramano che non tremo, porto il san più blasfemo. Servo d'avvocato, torno a casa a tardo orario, per il patto col demonio, denaro, l'amore ha scordato.